Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Blindato il confine ungherese, la polizia inizia ad arrestare i profughi. Nuovo naufragio al largo delle coste turche, 22 vittime, fra cui 4 bambini. Delusione per gli esiti del vertice europeo. Nel Piacentino ancora dispersi, padre e figlio dopo l'alluvione di ieri. La regione stanzia 2 milioni di euro per la prima emergenza, ma in queste ore si contano i danni molto più estesi. Protesta degli esodati davanti al Ministero dell'Economia. Arriva anche Salvini che dice: restiamo ad oltranza, il leader leghista, cancelliamo la Fornero, ma non solo la legge. Crescono le immatricolazioni auto nei primi 8 mesi dell'anno e Fiat Chrysler fa meglio del mercato da febbraio. A Mirafiori si produrrà il SUV della Maserati. Arrestato per stalking all'inizio di luglio, torna libero dopo 2 settimane. Oggi ha ucciso l'ex compagna Terzigno nel napoletano. La Corea del Nord riavvia un reattore nucleare e siamo pronti a colpire i nostri nemici, dice Pyongyang, anche gli Stati Uniti. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il consueto punto a metà giornata di quello che sta succedendo e che succede nell'Italia e nel mondo, il consueto punto di Radio 24. In apertura torniamo a parlare della situazione dei profughi. L'Ungheria ha chiuso definitivamente i confini e iniziato ad arrestare chi prova ad oltrepassarli. Tutto questo all'indomani di una riunione europea nella quale non si è raggiunto un accordo sulle quote. L'idea di un summit ad ottobre mi fa sinceramente ridere. La frase di Antonio Guterres, responsabile dell'Agenzia ONU per i rifugiati, rende bene il clima di frustrazione che si respira anche in Europa, al Parlamento europeo, all'indomani del vertice dei ministri dell'interno dell'Europa, che è stato aggiornato appunto all'8 di ottobre, senza decidere praticamente nulla. Non possiamo aspettare, dice Guterres. Stessa delusione è stata espressa dal commissario europeo per l'immigrazione Dimitris Avramopoulos. Let me tell you that last night I came out very disappointed. Lasciatemi dire, ha detto, che sono uscito dal Consiglio Affari Interni Europei molto deluso ieri sera. Right now, the whole world is watching us. Il mondo ci guarda, ha concluso. Dobbiamo agire. Pochi minuti prima, anche Federica Mogherini, alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, ammoniva: nessuna recinzione potrà fermare la disperazione di chi è disposto a mettere in pericolo la propria vita pur di scappare, diceva Mogherini, un riferimento a ciò che sta avvenendo in Ungheria in queste ore, dove da oggi sono inasprite le norme contro i migranti. Già in 16 sono stati arrestati in mattinata alla frontiera tra Orgos e Rosche, rischiano l'espulsione e fino a 3 anni di carcere. Poco prima dell'entrata in vigore delle nuove norme erano riusciti ieri a passare i 9.380, fra gli ultimi una donna con 2 bambini in braccio, bloccata mentre tentava, correndo in lacrime, di passare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E più avanti nel corso della trasmissione torneremo a parlare di tutto questo, lo faremo sempre con la nostra Valentina Furlanetto, alla quale abbiamo chiesto di fare un punto sui numeri. Alcuni ne sono stati diffusi in mattinata, quelli dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che dice che dall'inizio del 2015 hanno attraversato il Mediterraneo 464.800 profughi, e poi ci sono anche i dati di Frontex, oltre che quelli che riguardano i singoli paesi, perché anche questi sono interessanti. Tutto questo tra poco. Andiamo intanto nel Piacentino, all'indomani dell'alluvione si cercano ancora 2 dispersi, padre e figlio. Facciamo un punto su quello che succede, su quali sono i danni, con Paola Gazzolo, che è assessore alla difesa del suolo e della costa e alla protezione civile della regione Emilia-Romagna. Assessore, buongiorno e benvenuta. Sì, buongiorno, buongiorno ovviamente a tutti. Ci dà radio ascoltatori. Ascoltatori, ci dà un quadro della situazione generale, per favore? Ma sì, guardate, io in questo momento sono in una frazione del comune capoluogo, Roncaglia, e sto verificando di persona tutte le attività che abbiamo messo in atto e che ha definito il sistema di protezione civile in risposta all'emergenza. È chiaro che in questa fase quello che ci preoccupa e ci interessa prioritariamente è il ritorno alla normalità. Per cui anche come regione abbiamo disposto immediatamente, già dalle prime ore della mattina di ieri, delle risorse, 2 milioni di euro, proprio per sostenere tutte le spese che i comuni hanno prevalentemente in capo per fronteggiare la prima emergenza, mi sembra di capire. Le chiederei però anche qualche elemento di cronaca, se riesce, assessore. Avete un'idea di quante strade siano interrotte, di come sia la situazione, se ci sono ancora frazioni isolate? Sì, le frazioni si stanno via via riaprendo tutte. Io penso che entro la giornata di oggi, almeno in via provvisoria, saranno riaperte le frazioni isolate, tranne rari casi, insomma, su cui si sta intervenendo espressamente, visto che ha colpito anche l'altra parte, soprattutto dell'Appennino. E quindi si stanno riaprendo, così come i servizi essenziali sono già tornati all'80% nella ripristino, anche qua in parte in via provvisoria, quindi restano alcuni casi isolati sull'acqua e sulla elettricità, ma ormai anche questi sono in via di soluzione. Resta ovviamente tutto il danno più complessivo sul territorio, sulle infrastrutture pubbliche e ovviamente anche ai cittadini, alle imprese che hanno avuto tanta parte delle loro abitazioni allagate. Avete una stima, per quanto provvisoria, dei danni, almeno come ordine di grandezza, nell'ordine delle centinaia di milioni? Guardi, noi siamo abituati a dare i numeri quando questi sono veri, quindi se possibile in emergenza è meglio non dare troppi numeri ma operare. La stiamo preparando ovviamente insieme alla prefettura, che in questo caso ha il coordinamento del soccorso urgente come prevede la norma. Stiamo preparando la stima anche perché stiamo attivando la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza, vista l'eccezionalità dell'evento, perché qui stiamo parlando di un evento che potenzialmente, adesso anche qua si sta concludendo l'analisi del nostro servizio idrometeoclima, la nostra ARPA che sta definendo tutti gli elementi che in questo momento stimano l'evento con un tempo di ritorno duecentennale. E fra l'altro devo dire che nell'arco di poche ore è caduto un quantitativo di pioggia molto importante, l'abbiamo... oltre 300 mm, che i residenti non ricordano, quindi evidente l'eccezionalità. Raccontato. La ringrazio. Stiamo predisponendo assessore, dobbiamo chiudere questo collegamento. Io la ringrazio. Grazie disponibilità. Nel frattempo, io credo che nell'arco di pochi giorni avremo una stima molto vicina alla realtà. A quel punto la potremo avere. Daremo tutti i numeri, sì. Benissimo, la ringrazio. Torneremo a parlare di questo. Lo faremo tra l'altro col sindaco di Piacenza e col sindaco di Rivergaro, altri due comuni colpiti. Tutto questo nel corso della trasmissione. Intanto andiamo ai dati dell'Istat di oggi sulla disoccupazione. Nel secondo trimestre dell'anno tutti gli indicatori sul mercato del lavoro hanno segnato un miglioramento, a dirlo è l'Istat, che racconta così di un mercato consolidato con una crescita congiunturale del PIL dello 0,3%. Sono aumentati sia l'input di lavoro impiegato sia l'occupazione, e in misura modesta nella prima parte dell'anno è tornata a crescere anche la produttività. Il recupero dell'occupazione è proseguito anche a luglio con una crescita annua dell'1,1%, 235.000 unità in più. Crescono invece di 120.000 unità i lavoratori a sud, e si tratta di assunzioni soprattutto nell'ambito dell'agricoltura. La conferma arriva da Coldiretti. Nel confronto con il nord però si allarga il divario soprattutto sui tassi di disoccupazione. Resta ancora forte il passaparola ai canali informali per trovare e cercare lavoro. Sempre l'Istat ci dice che l'88,9% delle persone si rivolge infatti ad amici, parenti e conoscenti per avere un posto di lavoro. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stato in corso una protesta davanti al Ministero dell'Economia sul tema degli esodati, una protesta alla quale partecipa anche la Lega Nord. Poco fa la stessa Lega, per bocca di Massimiliano Federica, capogruppo alla Camera, ha detto: occupiamo il Ministero dell'Economia, e poi nel pomeriggio le aule di Camera e Senato. Andrea Viali si trova davanti al Ministero. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, sono alcune centinaia, Simone, gli esodati che sono arrivati questa mattina in via 20 settembre per questa protesta contro la legge Fornero. La manifestazione è stata promossa da CGIL, CISL e UIL, che chiedono tutele anche per gli ultimi, si calcola circa 50.000 lavoratori che sono rimasti senza lavoro e senza pensione a causa della riforma varata, lo ricordiamo, dal governo Monti. Una delegazione dei sindacati è stata anche ricevuta dal sottosegretario Baretta, al quale ha chiesto il reintegro delle risorse del fondo di salvaguardia destinato proprio agli esodati. Il Ministero dell'Economia e quello del Lavoro hanno anche fatto sapere che il governo sta studiando delle soluzioni per risolvere questo problema, una rassicurazione che però non ha convinto i sindacati, che si sono detti delusi dall'esito dell'incontro al MEF. Negativo, lo dicevi, anche il giudizio del leader della Lega Salvini, anche lui era in piazza ed è stato ricevuto dal sottosegretario, ma in questo momento la manifestazione è finita. Salvini però si trova ancora all'interno del Ministero, dove ha occupato una sala, si rifiuta di uscire e chiede di essere ricevuto direttamente dal ministro Padoan. Il leader leghista ha poi fatto sapere, lo raccontavi attraverso Fedriga, che la Lega proseguirà la sua battaglia contro la legge Fornero anche in Parlamento già a partire da oggi pomeriggio. Per ora è tutto. Grazie Andrea Viali, e farà discutere anche la frase di Salvini che ha detto cancelliamo la Fornero e non solo come legge. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, proprio a proposito di lavoro, nel messaggio che ha inviato a Coldiretti per la giornata dell'agricoltura italiana, ha ricordato l'impegno dell'Associazione contro il lavoro nero e il caporalato, che sono un fenomeno inaccettabile di illegalità, una piaga sociale che deve essere eradicata definitivamente. Forse un messaggio che non arriva a caso, visto che dopo le vittime delle settimane scorse, oggi il Ministro dell'Agricoltura Martina e quello della Giustizia Orlando presenteranno le nuove norme per contrastare il fenomeno dei lavoratori, spesso immigrati, sottopagati e sfruttati in agricoltura. E dall'agricoltura passiamo all'industria vera e propria. Nei primi 8 mesi dell'anno ripartono le vendite di auto in Europa con un più 8,6% con Fiat Chrysler, che fa ancora meglio del mercato. Si apre sotto questi auspici che sembrano buoni il Salone di Francoforte, dove si trova l'inviato del Sole 24 Ore Andrea Malan, al quale chiedo un punto di giornata. Andrea, buongiorno. Buongiorno, sì, come hai detto tu, grande ottimismo per i dati positivi sull'auto dei primi 8 mesi. Alfredo Altavilla, numero uno di Fiat in Europa, ha detto che se settembre andrà bene, che è un mese decisivo, si potrebbe pensare di rivedere al rialzo addirittura le stime sulle vendite per l'intero anno. L'Europa un po' paradossalmente è in questo momento, insieme agli Stati Uniti, l'unico mercato che va bene, con tutti gli emergenti che sappiamo essere o in grave difficoltà come in Brasile e Russia, o in fase di rallentamento se non frenata come la Cina, ed è questo soprattutto la Cina che preoccupa i costruttori tedeschi che qui giocano in casa. L'altra notizia di oggi è l'assenza di Sergio Marchionne. Sergio Marchionne è rimasto negli Stati Uniti, dove sta negoziando, forse ancora in queste ore, con il sindacato americano UAW il rinnovo del contratto di lavoro per i prossimi 4 anni. Sappiamo che negli Stati Uniti il sindacato negozia con uno solo dei 3 big di Detroit, quest'anno tocca a Fiat Chrysler, e poi il contratto viene allargato con qualche modifica anche agli altri 2. La firma potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Grazie Andrea Malan per questo aggiornamento. E c'è anche un altro salone che è stato presentato oggi e che si apre fra 2 settimane, il Salone Nautico. Ci torneremo tra poco. Nel frattempo passiamo alla cronaca, iniziando da un caso di stalking che, come è accaduto altre volte in passato, si è concluso con un omicidio. Dopo una caccia all'uomo che è durata per l'intera notte, in cui sono stati impegnati i carabinieri di tutti i reparti della provincia di Napoli, è stato catturato Nunzio Annunziata, l'ex compagno di Vincenza Vino, la donna uccisa ieri pomeriggio in strada a Terzigno, nel napoletano. L'uomo era già stato arrestato il 10 luglio scorso per stalking contro la Avino e in seguito era stato posto ai domiciliari. Dopo 13 giorni il riesame lo aveva rimesso in libertà con l'ordine di non avvicinarsi alla ex compagna. Nel frattempo la donna, che era andata in vacanza con la madre in Calabria, avrebbe continuato a subire atti persecutori da parte di Annunziata. Ieri pomeriggio l'epilogo. L'uomo, come hanno riferito i carabinieri, avrebbe sparato dalla sua auto in corsa contro l'Avino mentre lei passeggiava per strada. Dopo averla colpita, sarebbe sceso dalla macchina per rubarle la borsa e il cellulare, con il quale avrebbe chiamato i parenti della donna per minacciarli di morte. Dopo un'affannosa ricerca da parte delle forze dell'ordine, Nunzio Annunziata, che ora si trova in caserma a Terzigno per essere ascoltato dai PM della Procura di Nola, è stato riconosciuto in strada proprio da un carabiniere questa mattina verso le 6 a Poggio Marino, nel napoletano. Era a piedi e ha cercato di fuggire prima di essere fermato. Quando si è arreso era disarmato. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di Napoli, sta montando la polemica su una frase della presidente della commissione antimafia, Rosy Bindi, che ieri aveva detto che la camorra è un dato costitutivo di questa società, di questa città, di questa regione, riferendosi appunto alla città e alla Campania. Sono saltato sulla sedia, dice il sindaco Luigi De Magistris, è una frase che non condivido per nulla. A parlare anche il procuratore Giovanni Colangelo: la camorra non è nel DNA dei napoletani, che non hanno una propensione al crimine. La criminalità rappresenta una minima percentuale della popolazione rispetto ai cittadini che vogliono vivere in pace. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, proseguire con le altre notizie, sentire anche che cosa ha detto il Presidente del Consiglio, che si trova all'Expo di Milano e sta parlando con le persone, gli iscritti alla Coldiretti, facciamo un punto sul calcio, perché stasera è serata di Champions. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, pronti via, si parte. Per la Juventus in questo momento così difficile non poteva esserci avversario peggiore, il Manchester City, che sta andando molto bene in Inghilterra, e una Juventus che è contestata dai tifosi, partita in maniera pessima in campionato, Allegri già sulla graticola e con assenze importanti come quella confermata ieri, fuori per un mese Marchisio. Dunque Allegri si deve inventare l'ennesima formazione. Con ogni probabilità ripartirà dalla difesa a 3, che era quella tanto cara ad Antonio Conte. Con ogni probabilità vedremo Hernanes acquistato come trequartista, che stasera in emergenza giocherà alla Pirlo, cioè davanti alla difesa. In attacco si ricompone la coppia Mandzukic-Morata, si gioca alle 20:45. È chiaro, forse non è questa la partita da vincere per questa Juventus, ma è pur sempre l'esordio della squadra vicecampione d'Europa, quindi un sacco di temi che ci terranno incollati alla televisione stasera. E grazie Carlo, se ne parlerà ovviamente come sempre anche tutti i convocati a partire dalle 14. Noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico, ci ritroviamo subito dopo. Come si diceva, parleremo di quello che sta dicendo in questi minuti il Presidente del Consiglio Renzi, torneremo sull'alluvione nel Piacentino, ci faremo raccontare dal sindaco di Piacenza che cosa succede e poi cercheremo di fare un po' di numeri sulla vicenda dei profughi. A tra un attimo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Le notizie principali: è stato blindato il confine ungherese, la polizia ha iniziato ad arrestare i profughi e c'è stato un nuovo naufragio al largo delle coste turche, 22 vittime, fra cui 4 bambini. Nel Piacentino sono ancora dispersi padre e figlio dopo l'alluvione di ieri. La protesta degli esodati davanti al Ministero dell'Economia, arriva anche Salvini che dice: restiamo ad oltranza, ha occupato una stanza del Ministero. Crescono le immatricolazioni auto nei primi 8 mesi dell'anno e Fiat Chrysler fa meglio del mercato. È stato arrestato per stalking all'inizio di luglio, è tornato libero dopo 2 settimane e oggi ha ucciso l'ex compagna. E veniamo adesso alle parole del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che sta parlando con gli iscritti alla Coldiretti all'Expo di Milano e molto ha parlato di agricoltura, tanto di tasse agricole quanto di caporalato. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, questo è un mondo che non è il passato dell'Italia ma è il futuro dell'Italia, le parole di Renzi, che ha poi allargato il concetto chiedendo più in generale di puntare sul futuro del paese e proprio sul mondo dell'agricoltura. Ne ha tutte le capacità, basta sputare addosso alla nostra Italia. Quindi il passaggio dedicato agli interventi del governo, dagli 80 euro alla riduzione dell'IRAP, dall'abolizione della TASI all'annuncio più importante di oggi, il taglio dal 2016 anche di IMU ed IRAP agricole. Quindi la garanzia del Presidente del Consiglio ai sindaci sui timori di questi ultimi, che dal minor gettito sulla casa gli enti locali ne possono avere degli squilibri di bilancio. Sarà un intervento in parità, le parole di Renzi. Capitolo cassa, depositi e prestiti, abbiamo bisogno di un ruolo più forte della cassa. Per chiudere, Simone, il fenomeno del caporalato in agricoltura, noi non possiamo stare a guardare, ha detto Renzi. Il governo sul tema è pronto anche a varare, se ce ne dovesse essere la necessità, un decreto. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. Come si diceva, tra l'altro, oggi dovrebbero essere presentate le nuove misure nel pomeriggio. Noi ritorniamo al tema dei profughi o dei migranti. Le ultime notizie ci dicono che l'Ungheria a questo punto ne ha arrestati 60, applicando così la nuova legge in tema di immigrazione entrata in vigore proprio oggi, e ha letteralmente blindato i confini. Di cronaca abbiamo parlato nella prima parte, adesso vogliamo arrivare un po' ai numeri, perché un po' ne sono stati diffusi questa mattina, un po' tra i numeri di quello che sta succedendo anche nei singoli paesi europei, come per esempio la Germania. Siamo andati a scavare noi, lo ha fatto Valentina Furlanetto, che è in studio con me. Valentina, eccoci, prego. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. In effetti abbiamo guardato quello che sta accadendo e che è accaduto negli ultimi anni in Germania, dove negli ultimi 15 giorni soltanto gli arrivi sono stati 60.000. Per questo si è parlato un po' nelle ultime ore di marcia indietro da parte della Germania, che ha ripristinato alcuni controlli. Questa mattina il vice cancelliere Sigmar Gabriel ha detto invece che la stima rimane quella per Berlino, 800.000 arrivi nel 2015, quindi non è stata alzata a 1 milione come dicevano alcuni organi di stampa stamattina, ma la Germania non frena neppure, si sta praticamente organizzando. Dublino 2, ha detto il capogruppo del PPE Weber a Berlino, Dublino 2 non verrà eliminato ma collegato a un meccanismo di quote per l'emergenza. In realtà, diciamo adesso, ma l'abbiamo detto anche spesso a Radio 24, le domande d'asilo in Germania, non soltanto quest'anno ma anche negli anni precedenti, erano molto alte, quindi la leggenda per cui c'è stata una Germania che si è aperta negli ultimi mesi, ecco, c'è stata un'apertura più forte, però ha sempre avuto la Germania un numero di domande e anche di domande accolte di richiedenti asilo molto alto. Per farvi un esempio, abbiamo estrapolato alcuni dati, la fonte è UNHCR, cioè l'Agenzia ONU per i rifugiati, e nel 2014 l'Italia ha avuto 93.715 rifugiati presenti nel paese. Invece in Germania, per fare una comparazione, erano 216.000. L'anno prima in Germania erano 126.000, quindi 2013. Stiamo parlando in Italia 50.000. Per fare un confronto con la popolazione, l'Italia, il percentuale di rifugiati richiedenti asili rispetto alla popolazione è dello 0,22%, in Germania dello 0,54%, pensate, in Svezia è del 2,06%, quindi insomma del 2%. Questo per rimanere ad alcuni dati e per andare a vedere, come dicevamo, anche cosa ha fatto la Germania negli anni scorsi. Variano, Valentina, anche i tassi di accoglimento a seconda della nazionalità da paese a paese? Sì, questa è una cosa interessante in effetti, perché si sta discutendo a livello europeo non solo gli hotspot, le quote e anche Dublino 2, ma anche come e se arrivare ad una domanda d'asilo europea, cioè che abbia criteri unici per tutti gli stati europei, perché al momento ci sono molte discrepanze. Ad esempio un siriano viene accolto nel 99% dei casi in Svezia, le domande accolte da parte di siriani sono state accolte nel 99% dei casi e soltanto nel 64% in Italia. Se invece uno è afghano ha più probabilità di essere accolto in Italia, 95%. In Gran Bretagna ad esempio precipita direi al 20%, in Francia le possibilità sono l'82%, anche per la Somalia ci sono discrepanze, perché gli italiani, l'Italia accetta le domande di asilo, le accoglie da parte di persone somale per il 94%, in Francia questa percentuale scende al 23%, quindi come vedi ci sono forti discrepanze e sarà interessante capire se anche su questo l'Europa arriverà ad un unico criterio per la richieste d'asilo. Non è un caso appunto che ieri al Consiglio europeo ci si sia divisi, se anche le differenze sono così profonde dal lato dei numeri e dell'accoglimento delle richieste d'asilo. Intanto grazie alla nostra Valentina Furlanetto e saluto Paolo Dosi, sindaco di Piacenza. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi. Interessata dall'alluvione, se non erro, è la frazione di Roncaglia, i dintorni della Caorsana. Com'è la situazione adesso? Sì, adesso si sta avviando la normalità, stamattina verso le 7 abbiamo riaperto la strada, anche se le case che sono state colpite sono ancora parzialmente invase dal fango e si stanno ovviamente contando i danni. E famiglie che sono state più colpite nella parte più bassa della frazione stanno lavorando anche con l'aiuto dei volontari. Avete già fatto, è una domanda che abbiamo fatto anche all'assessore alla protezione civile dell'Emilia Romagna, io so che il momento è un po' difficile, ma avete un'idea della stima dei danni che ci sono stati da voi? No, ancora non siamo in grado. Evidentemente abbiamo chiesto che si facesse nei singoli ambiti una valutazione, che però è ancora in fase di costruzione, quindi non abbiamo per ora un ritorno preciso. Un'ultima cosa, sindaco, pensate che un ritorno alla normalità completo entro quanto possa avvenire? Ritengo entro la settimana, tenendo conto che il grosso è stato tolto, però evidentemente eventi così violenti di questo tipo lasciano degli strascichi che poi inevitabilmente comportano anche fuori di intervento più minuto. Riteniamo che entro la settimana anche le abitazioni private dovrebbero tornare ad essere quasi completamente agibili. La ringrazio, grazie al voi, sindaco grazie. Di Piacenza Paolo Dosi per essere stato con noi per questo aggiornamento. Passiamo al primo bilancio, restiamo sulla cronaca per estate tranquilla 2015, l'operazione messa in campo dai carabinieri del nucleo tutela della salute e dal Ministero della Salute stesso, un'operazione che ha portato a controlli non solo negli stabilimenti balneari e nei villaggi turistici, ma anche nelle strutture per anziani e nei locali per evitare che i giovani facessero abuso di alcol. Il capitano Dario Praturlon dei NAS fa un punto sui numeri. Parliamo di oltre 5.000 controlli svolti, dedicati a questo specifico servizio da giugno ad oggi. L'estate tranquilla ancora non è finita, per noi l'estate proseguirà fino a fine settembre. 5.000 controlli complessivamente, e che cosa avete trovato? Abbiamo denunciato, segnalato all'autorità amministrativa circa 1.200 titolari di strutture su oltre 5.000 controlli effettuati. Una parte di queste è una violazione di tipo penale, oltre 280, 1.500 invece violazioni amministrative che riguardano le carenze strutturali igienico-sanitarie delle strutture. Però poi questo è tipo amministrativo, come anche la rintracciabilità degli alimenti che non era presente, quindi non si conosceva l'alimento da dove arrivava e quindi in caso di tossinfezione poteva essere difficile riuscire a porre rimedio. E poi problemi di etichettatura. Dal punto di vista penale invece la frode in commercio e poi gli alimenti tenuti in cattivo stato di conservazione. E altri passaggi dell'intervista ve li faremo sentire nell'arco della giornata, nei nostri giornali radio, soprattutto appunto come si diceva anche sul controllo dell'abuso di alcolici da parte dei giovani. Noi ci fermiamo un attimo, andiamo tra poco a sentire che cosa succede sui mercati e poi torneremo in diretta per parlare del salone nautico. Dovremmo forse avere un altro sindaco del Piacentino per sentire com'è sempre la situazione da loro. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Sono una sessantina i profughi arrestati finora dall'Ungheria dopo il varo della nuova legge contro l'immigrazione. Di poco fa le parole del vice cancelliere tedesco Gabriel dopo il fallimento del vertice europeo. L'Europa ieri si è coperta di ridicolo, dice. Nel Piacentino sono ancora dispersi padre e figlio dopo l'alluvione di ieri. La regione stanzia 2 milioni di euro per la prima emergenza. Renzi parla agli agricoltori, cancelleremo l'IMU e l'IRAP agricole, sul caporalato non staremo a guardare, siamo pronti ad un decreto. Sugli esodati la Lega minaccia, occuperemo il Ministero e le aule parlamentari. Salvini dice cancelliamo la Fornero ma non solo la legge. E una notizia di poco fa è padre Lombardi, il portavoce Vaticano, che dice che per la prossima visita del Papa a Cuba è verosimile un incontro del pontefice con Fidel Castro. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo con Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Si chiama Nunzio Annunziata, l'uomo fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso l'ex compagna Vincenza Avino. Il punto è che era stato arrestato il 10 luglio scorso per stalking contro la donna uccisa ieri in strada a Terzigno e siamo in provincia di Napoli. Poi messo ai domiciliari. Dopo 13 giorni il riesame lo ha rimesso in libertà con l'ordine di non avvicinarsi alla donna. Non è il primo caso nel quale vediamo che questo ordine di non avvicinarsi alla donna non viene rispettato e la conclusione è tragica. Saluto Anna Boldri, che è del Dipartimento di Psicologia della Seconda Università di Napoli e autrice di una serie innumerevole di libri dedicati a questo argomento, Uomini che uccidono, strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti allo stalking, dai maltrattamenti all'omicidio e molti altri. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Le vorrei chiedere questo, c'è qualcosa nel meccanismo della legge che non funziona o è nell'applicazione della legge che non funziona? Sì, grazie a questa domanda. Il discorso è esatto, la legge c'è e anche il modo per tutelare le persone. Purtroppo queste tragedie accadono e se ne parla, poi cerca di capire, no, che cosa non ha funzionato. Ovviamente l'unico responsabile di questo reato efferato è chi l'ha commesso, però c'è forse qualcosa, i fatti purtroppo tutti i giorni lo dimostrano, che bisogna fare in maniera più efficace e in maniera concertata soprattutto. Mi spiego meglio, ci sono alcune situazioni, e questo ne è una prova eclatante, ma non è l'unico, dove i cosiddetti segnali di rischio o comunque la pericolosità della persona che mette in atto certi comportamenti deve necessariamente prevedere come misure cautelari, come misure di protezione della vittima, qualcosa che sia più incisivo. La valutazione del rischio serve proprio anche per vedere quale risposta può essere la più efficace per scongiurare una recidiva, quindi anche le violenze stesse vanno ovviamente prevenute e scongiurate, e anche addirittura l'escalation, fino anche l'omicidio. E quindi praticamente, e quindi nella pratica, mi scusi perché poi abbiamo poco tempo, ogni caso dovrebbe ricevere una valutazione specifica, però non ci sono le strutture per farlo, mi sembra di capire, Boldri. Allora, guardi, noi da tanti anni, la Polizia di Stato in particolar modo, ma anche l'Arma dei Carabinieri, si è formata, si è anche aggiornata, peraltro lo richiede proprio anche la Convenzione di Istanbul, che adesso ovviamente a tutti gli effetti anche in vigore in Italia, che ci si doti tutti quanti, ma anche la magistratura, di una valutazione del rischio. Ovviamente non significa riuscire a prevedere il futuro, però capire che in alcune situazioni, e in questo caso se già una persona, cerco di essere più concreta, se una persona già viola una misura, nel senso che lui aveva appunto il divieto avvicinamento piuttosto che un'altra misura che lo doveva tenere lontano, e invece questa persona non rispetta queste misure, quindi è una persona che è capace di tutto e purtroppo l'abbiamo visto. Ovviamente bisogna da una parte agire mettendo in sicurezza la vittima, che però non può nascondersi a vita, quindi è importante intervenire in maniera tempestiva e soprattutto in maniera concertata e immediata. Io seguo tantissimi casi, casi anche di donne, perché dobbiamo mandare anche un messaggio positivo, che si riescono a proteggere e a tirare fuori, perché ovviamente qui adesso parliamo quando c'è il caso della donna uccisa, ma dobbiamo anche parlare delle tante che si riescono, che si salvano, che si riescono a salvare, evidentemente. Il problema grosso è quello dell'applicazione immediata della legge, di limitare al minimo l'interpretazione individuale e quindi utilizzare altri parametri che non sono quelli oggettivi. Altri parametri intendo, che ne so, non ha precedenti penali, non significa che se non ha precedenti penali quello non arriverà mai a commettere un delitto efferato. Questi omicidi qui purtroppo sono commessi da qualunque tipo di autore, non esiste una categoria, non esiste che la persona fa uso di sostanze piuttosto che l'alcolizzato, c'è di tutto, quindi bisogna guardare soprattutto come grosso segnale d'allarme su una persona che non si rassegna alla fine di una relazione perché ritiene la donna una sua proprietà e quindi attraverso l'omicidio sancisce per sempre quello che è il potere che lui ritiene essere suo di decidere anche in questo caso purtroppo la vita delle persone. La ringrazio, grazie ad Anna Boldri del Dipartimento di Psicologia della Seconda Università di Napoli per questi chiarimenti. Prima di chiudere parliamo del Salone Nautico di Genova, che è stato presentato oggi, sarà dal 30 settembre al 5 di ottobre. La presidente di Ucina, l'associazione di Confindustria che raccoglie le imprese del settore, Carla De Maria, intervistata dal nostro Andrea Ferro. La Nautica in Italia e il Salone Nautico sono un tutt'uno, perché il Salone Nautico è la vetrina dell'industria manifatturiera italiana ed è l'orgoglio dell'industria manifatturiera italiana. Fra 2 settimane scopriremo un salone di Genova che abbiamo voluto chiamare del rilancio. L'ho chiamato del rilancio a marzo, durante la prima conferenza stampa del salone, perché già si avvertivano segnali di ripresa, timidi, certo, ma comunque segnali di inversione di tendenza, che nei sei mesi successivi, quindi alla conferenza di oggi, a due settimane dal salone, lo confermerò, questi segnali positivi sono stati confermati. Quindi affrontiamo un salone di Genova, tutti gli operatori lo affrontano con maggiore ottimismo. Dopo tantissimi anni molto molto difficili, in cui si può solo ammirare la capacità delle aziende di resistere. Così dunque Cara De Maria, presidente di Ucina Traffico.